La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Nella prima parte del programma vi proponiamo la puntata andata in onda lo scorso 11 aprile. Dino Pesole dedica il suo approfondimento alla storia del cristianesimo. Ospite ai nostri microfoni Remo Cacitti, docente di letteratura cristiana antica e storia del cristianesimo antico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano e autore, con Corrado Augias, del volume Inchiesta sul cristianesimo, come si costruisce una religione, edito da Mondadori. Nella seconda parte vi proponiamo un estratto della conferenza dal titolo L'Europa oltre i nazionalismi, che si è tenuta durante Estoria, il quinto festival internazionale della storia di Gorizia. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Come è nato il cristianesimo? Chi e quando ne ha stabilito norme e procedure, riti e dogmi? Interrogarsi sulla genesi storica di quella che è divenuta nei secoli una delle più importanti religioni monoteiste del mondo è esercizio molto complesso. Ci ha provato Remo Cacitti, docente di letteratura cristiana antica e storia del cristianesimo antico all'Università di Milano, in un importante libro intervista scritto insieme a Corrado Augias, dal titolo Inchiesta sul cristianesimo, pubblicato da Mondadori. Il professor Cacitti lo avete già ascoltato nei giorni scorsi, perché lui si è occupato della ricostruzione del terremoto in Friuli. Nel dialogo con Cacitti, scrive Augias, vengono ricostruite le vicende che hanno caratterizzato la nascita del cristianesimo secondo i risultati della più attendibile e aggiornata ricerca. Nulla che non sia storicamente verificabile entra nel racconto. Buonasera, professor Cacitti, grazie. Buonasera a lei. Per aver accettato il nostro invito. Corrado Augias scrive nell'introduzione che una narrazione basata su documenti è cosa molto diversa da una costruzione teologica che per suscitare la fede deve in qualche modo trasformare i fatti. Le chiedo, professore, è possibile indagare 2000 anni dopo su un evento così centrale per la formazione e la coscienza religiosa di milioni di fedeli utilizzando solo o in prevalenza l'angolo visuale dello storico? In poche parole, quali limiti incontra lo storico nell'analizzare un evento da sempre dominato dalla fede e dalla teologia? Il limite più grave e più fondamentale è proprio quello a cui lei ha immediatamente prima accennato, perché Gesù Cristo ci viene restituito da un'esperienza di fede. Nessuno dubita certamente dell'esistenza storica di Gesù. È chiaro però che Gesù Cristo, la convinzione, la testimonianza di fede che afferma che quel Gesù di Nazareth che ha predicato, che ha agito, eccetera, ecco, la testimonianza di fede afferma che è il Messia, che è il figlio di Dio. Ora, questa testimonianza è una testimonianza di fede per il fatto che si basa su un evento che sfugge alla storia, cioè la resurrezione. Sì. E dallo storico è come un sismografo in questi tempi. Sì. Cioè registra secondo dei parametri, secondo una scala, no? La scala Richter. Ecco. Ciò che esce da questa scala non è percepibile dallo storico, voglio essere più preciso. Vi sono degli eventi nella vita di ciascuno di noi che sono certamente reali, pensi, lo dico sempre ai miei studenti, pensi all'innamoramento. Una persona ha come evento il fatto di innamorarsi. Bene, lo storico non potrà mai descrivere l'innamoramento, potrà descrivere le conseguenze di questo innamoramento. Ad esempio, se si tratta di giovani figliole o di giovani figlioli, registrerà la loro distrazione, l'aumento della conflittualità familiare, magari l'aumento della bolletta telefonica, eccetera. Cioè le conseguenze di un evento. Nei confronti della nascita del cristianesimo, lo storico è esattamente la posizione dei genitori di quella ragazza o di quei ragazzi. Può registrare ciò che è scaturito da un evento che lo storico non ha i mezzi per misurare. E l'effetto, la conseguenza più grande, più grave, più imponente dell'evento della resurrezione è la nascita di una religione. Ci sono due piani diversi, assolutamente diversi, attraverso cui riguardare l'evento Gesù Cristo. Uno è quello della fede e che è legittimo ovviamente. L'altro è quello della storia, vale a dire l'individuazione di tutto ciò che quell'esperienza di fede, che non è storicamente misurabile, ha prodotto nella storia. La nascita delle prime comunità, la nascita della più antica letteratura cristiana, cioè quello che noi abbiamo nel canone del Nuovo Testamento, ma non solo, perché accanto al canone ci sono molti altri Vangeli, ci sono molte altre lettere, ci sono molti altri atti, molte altre apocalissi, cioè tutto ciò che la produzione umana, la storia quindi, ha organizzato in conseguenza dell'evento della resurrezione di Gesù. Qui c'è un problema, professore, che riguarda l'importanza delle fonti, che è elemento fondamentale di qualsiasi ricerca storiografica. Su quali fonti, ecco, si basa la sua ricerca e analisi proprio in relazione a quanto lei ha detto finora? La stragrande maggioranza delle fonti sono quelle riunite sostanzialmente nel canone. Sì. Ci sono 27 libri di diverso genere letterario, abbiamo i Vangeli, abbiamo gli Atti, abbiamo le Epistole, abbiamo l'Apocalisse. Accanto a questo, tuttavia, abbiamo tutta una serie di altri elementi che non sono entrati nel canone. Le faccio solo un esempio. Se lei esamina il più antico manoscritto che contiene quasi tutta la Bibbia, sostanzialmente, che va sotto il nome del Sinaitico, di Sinaitico perché è stato scoperto proprio nell'Ottocento nel monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai, lei si accorgerà che accanto ai 27 libri del Nuovo Testamento ci sono anche due altri scritti. Uno, la lettera dello pseudo Barnaba, due, il pastore di Erma. Questi scritti oggi nel canone non ci sono più, ma evidentemente chi ha l'amanuense che ha scritto il codice sinaitico e quindi la comunità a cui era dedicata il codice sinaitico riteneva che tra i libri ispirati, cioè i libri che erano raccolti nel canone, ci fossero due scritti che attualmente non ci sono più. Questo semplicemente per dire che non c'è solo la tradizione del canone biblico, c'è anche la tradizione di testi che non sono considerati ispirati e che ci forniscono elementi, documentazioni che si pongono, cioè in una parola, come fonti altrettanto importanti di quelle canoniche. Dobbiamo considerare che già il Nuovo Testamento ci presenta immagini diverse di Gesù Cristo. Il più antico dei Vangeli sinottici, che è Marco, sì, non conosce assolutamente la nascita virginale di Gesù. Ancora più gravemente, in qualche modo, Paolo ignora praticamente tutto della vita di Gesù. Quindi dico, tra Paolo, Marco, Matteo e Luca e il resto della tradizione canonica, noi abbiamo delle immagini, delle sindoni storiche di Gesù estremamente diversificate. In questa complessità, professor Cacitti, per quanto possibile, si potrebbe in qualche modo limitare o circoscrivere i fatti da come questi ci sono stati tramandati, o è un esercizio complesso? È certamente un esercizio complesso, però direi che tenendo conto di tutti questi elementi, lo storico, oggi lo storico del XXI secolo, ha una strumentazione adeguata per arrivare alle diverse immagini di Gesù che ci sono consegnate dall'antichità. Queste immagini che provengono dalla tradizione canonica e da altre tradizioni sono state messe in crisi dalla ricerca storiografica a partire dall'età dei lumi. Questa ricerca che si avvia in epoca illuministica e che attraverso tutto l'Ottocento, soprattutto in ambito protestante e tedesco, è una ricerca motivata da questa domanda. È possibile ricostruire un'immagine, una sindone storica di Gesù indipendentemente dalla tradizione biblica e dogmatica? Questo è elemento fondamentale. Certo, e difatti, guardi, si sono impegnati gli ingegni migliori, sa? Da sì. Hegel a Strauss, a Bauer, sì. Adesso non facciamo troppi nomi. La sinfonia funebre di questa ricerca venne intonata in un capolavoro assoluto agli inizi del secolo, tra l'altro da un grande organista, e che è Albert Schweitzer. Bene, Schweitzer cosa scopre? Scopre che tutta questa ricerca ha prodotto tante immagini di Gesù quante sono quelle dei suoi ricercatori. Giunge a dire che il Gesù che emerge da questa ricerca somiglia come una goccia d'acqua a colui che l'ha compiuta. Qual è la soluzione di Schweitzer? La soluzione di Schweitzer è rimandiamo, restituiamo Gesù ai suoi tempi. Sì. Perché Gesù, una volta liberatosi dalle catene che lo tenevano avvinto alla roccia della dogmatica, finalmente libero si muove, viene verso di noi, ma non si ferma nel nostro tempo. Egli ritorna nei suoi tempi. Quali sono i suoi tempi? Sono quelli dell'apocalittica, dice Schweitzer. Vale a dire della percezione dell'imminente fine dei tempi, dell'imminente fine del mondo. Gesù deve tornare nel suo tempo, deve tornare nei tempi dell'apocalittica. La storia e la memoria. Ben ritrovati alla Storia e la Memoria. Vi proponiamo ora un estratto della conferenza dal titolo L'Europa oltre i nazionalismi, che si è tenuta durante È Storia, il quinto festival internazionale della storia di Gorizia. Il lungo cammino per la costituzione di un'Europa patria comune di tutti i suoi popoli conosce oggi una nuova sfida. Rispondere ai particolarismi locali, resistendo all'ondata di euroscetticismo e paure figlie del sistema globale. Negli ultimi 100 anni si sono moltiplicate le frontiere che dividono i confini degli stati nazionali in Europa. Ora che nuovi stati, territori e soggetti geopolitici si affacciano sulla scena, riuscirà quello che ci unisce ad avere la meglio su ciò che ci divide? Come spiega lo storico Franco Cardini, durante il XVIII e XIX secolo alcune potenze si sono servite del concetto di patria e nazione per cambiare l'ordine costituito. Debbo dire che nella storia del XVIII e del XIX secolo, ma questo è sotto gli occhi di tutti, obiettivamente il concetto di patria e di nazione è servito ad alcune potenze, segnatamente alle potenze occidentali e liberali, quindi la Francia di Luigi Filippo e poi del Secondo Impero e poi della Terza Repubblica o l'Impero inglese, eccetera, è servito in Europa come grimaldello per far saltare le grandi realtà sovranazionali. Ogni popolo è legato a un suo destino espresso da confini che sono poi i confini che storicamente quel popolo in qualche modo si è dato e da una lingua, e ogni popolo deve avere uno stato che coincida con i suoi confini storici e con i luoghi parlati da una stessa lingua. Questa finzione ha funzionato perché è servita a scardinare, basti una data che a voi è familiarissima, il 28 giugno del 1914, è servita a far saltare una serie di organizzazioni sovranazionali che praticamente prendevano gran parte dell'Europa di prima, di allora, e che 4 anni dopo non c'erano più. Tecnicamente, al di là di valutazioni ideologiche o morali, l'idea nazionalista serve agli stati liberali per eliminare potenze rivali o contrapposte e soprattutto per mandare l'orologio della storia in avanti sulla base del principio che quello sarà il domani, mentre invece le grandi organizzazioni sovranazionali, l'impero asburgico, l'impero turco, dovevano saltare quelle organizzazioni sovranazionali per far luogo a un progresso politico, sociale, economico, civile e quant'altro, anche morale, che sarebbe stato quello del domani fondato sulle nazioni. Secondo Gianni De Michelis, ex ministro degli esteri e membro del Partito Socialista, con la pace di Vestfalia ha preso piede l'idea di Stato-nazione come criterio di organizzazione fra le potenze europee. La storia dell'umanità è stato un passaggio progressivo, un'intensificazione, una capacità di organizzazione sempre di società sempre più complesse, sempre attraverso la ricerca di alcuni elementi comuni che rendessero possibile il governo comune di queste comunità sempre più numerose, sempre più complesse. Con la pace di Vestfalia si è organizzato il mondo, o meglio il mondo che comandava, attraverso l'idea dello Stato-nazione. Lo Stato-nazione è stato creato lì. E lo Stato-nazione non ha valso per tutto il mondo, no, ha valso per un pezzo minoritario del mondo che ha dominato il resto del mondo, perché Vestfalia ha creato un cosiddetto sistema internazionale interstatale, basato sull'idea dello Stato-nazione, che poi ha colonizzato il grosso del mondo, anzi questo sistema è entrato in crisi tra, col 1913, col 1939, col 1989, con la fine dell'ordine coloniale, perché in realtà la fine dell'89-91 è la fine dell'ordine coloniale, cioè di un sistema mondiale organizzato e governato in questo modo: un gruppo minoritario di società umane che sfruttavano il grosso delle altre società umane. Il meccanismo funzionava grazie allo sfruttamento, ovviamente grazie allo squilibrio dei diritti, totali per taluni e zero per talaltri, che è continuato fino al 1989-91, perché la fine dell'Unione Sovietica significa la fine dell'ultimo pezzo dell'ordine coloniale. E naturalmente mette in moto anche nella parte dell'ordine coloniale che era finito prima, perché era finito con la fine della guerra mondiale nel 1945, fa finire la cosiddetta epoca postcoloniale e apre l'epoca che oggi stiamo vivendo drammaticamente soffrendo, del passaggio dall'ordine coloniale a un nuovo ordine. Ma sentiamo sempre per Gianni De Michelis quali devono essere gli ideali che animano l'Europa dei giorni nostri. Penso che dobbiamo tornare alla lezione di 2000 anni fa, al Civis Romanus Sum, a una identità comune basata sull'accettazione di regole comuni. Però nel corso di questi decenni, e ancora nel corso di questi anni, la spinta è andata in un'altra direzione. Ha cominciato Wilson col concetto dell'autodeterminazione. Io l'ho detto da 20 anni, il concetto dell'autodeterminazione è un concetto molto, molto pericoloso. L'altra faccia del concetto di autodeterminazione è quello di pulizia etnica, perché chi determina cosa? Ha diritto di determinare il futuro di una comunità, la maggioranza croata del 90%, o ha diritto il 10% dei serbi della Craina? Hanno diritto in Bosnia di determinarlo, lì poi addirittura le percentuali sono diverse, la maggioranza, ma che è sempre minoranza, dei musulmani eredi dei Bogomili, oppure i serbi, oppure i croati? Hanno diritto in Kosovo di determinare la maggioranza albanese o la minoranza serba o così via? Inevitabilmente il diritto dell'autodeterminazione porta a dei disastri inenarrabili. Li abbiamo avuti nell'Europa occidentale, li abbiamo nei Paesi Baschi, li abbiamo avuti in modo diverso in un paese apparentemente civilissimo come l'Inghilterra, il Regno Unito, nel Nord Irlanda e così via. Su questo c'è una piccola correzione a Dimitri. Helsinki diceva esattamente l'opposto. Helsinki diceva che non si poteva prendere una decisione senza l'intesa. E in realtà Helsinki è stato applicato correttamente nel caso della Polonia e nel caso della Cecoslovacchia e della Cechia. Non è stato applicato correttamente nel caso della Jugoslavia, ha provocato il più grande disastro degli ultimi 20 anni della storia europea. In questa situazione, qual è la mia personale, la mia conclusione? È, ripeto, quella che guarda al futuro, visto che siamo in questo passaggio della storia, siamo oltre l'ordine coloniale, siamo in un mondo che è, tra virgolette, non solo quantitativamente ma qualitativamente diverso, perché in un mondo di 6,8 miliardi di umani destinato a diventare come minimo di 7-8 miliardi di umani, un mondo in cui la capacità di produzione di ricchezza è nell'ordine di grandezza che sarà determinato in questo secolo, decine e decine, per non dire centinaia di trilioni di dollari di ricchezza prodotta ogni anno, è evidente che occorreranno delle forme di governance diverse. Ed è evidente che delle forme di governance basate su criteri di omogeneità, l'etnia, la lingua, la religione, non possono portare in nessuna direzione, possono solo portare al disastro, possono solo portare alla disintegrazione. E siccome la partita, per dirla in maniera sintetica, è oggi una scelta tra prevalenza di una logica di integrazione o prevalenza di una logica di disintegrazione, è ovvio che dovremmo tutti essere istintivamente d'accordo sul fatto che è meglio che prevalga una logica di integrazione, ovvero sia dell'adesione a un sistema di regole che ci costruiremo noi, che aggiorneremo noi, che aggiorneranno i nostri figli, i nostri nipoti, in questo caso l'Europa, in questo caso l'Europa. Ecco perché io non sono mai d'accordo quando c'è qualcuno che dice bisogna che scriviamo nelle robe europee la radice cristiano e così via. Sciocchezze assolute, falsità che non corrispondono alla realtà storica. Quello che deve essere fatto insieme è la messa assieme di un sistema di regole, di uno stato di diritto europeo, dici una cittadinanza europea. Ha fatto di più, non per l'Europa, ma per il mondo, un programma come Erasmus, creando una quantità notevole di giovani europei in questi anni, dell'idea di essere parte di una cosa comune, che non mille discorsi, mille cose, eccetera. Per Dimitrij Rupel, ex ministro degli esteri sloveno, il processo di unificazione fra gli stati deve passare attraverso l'approvazione della Costituzione europea. Recimo, ko govorim o rešitvah za probleme, imam v mislih... La Convenzione ha prodotto una bozza di Costituzione nella quale si cerca di dare una soluzione a tutta una serie di problemi, dando da un lato la libertà a tutte le varie nazioni, entità, etnie europee, dandogli un po' di sovranità, dall'altro lato unificando questo continente. Io sono convinto che il tempo che viviamo chiama per una maggiore unità, ci richiede di avere una maggiore unità, una maggiore integrazione a livello europeo, affinché l'Europa potesse e possa giocare veramente un ruolo incisivo sulla scena mondiale, deve risultare più unita. Però gli Stati Uniti ovviamente non, l'Unione Europea certamente non sono gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono una nazione divisa in vari stati, mentre l'Unione Europea è un sistema complesso diviso in varie nazioni, e per questo l'integrazione a livello europeo a modo degli Stati Uniti mi sembra impossibile, cioè no, certamente non una cosa della quale si possa parlare come una prospettiva, ma so anche che l'Unione Europea potrà giocare un suo ruolo specifico e all'interno dell'Unione Europea giocano un ruolo specifico varie nazioni, e questo è importante. Nazionali, državi, chi se tu di istem času ustanovila. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Buonanotte.